Capitolo 39. Atlante e Prometeo. Prometeo, il creatore del genere umano, che taluni includono nel numero dei titani, era figlio della ninfa Climene e del titano Eurimedonte, oppure di Climene e Giapeto. Suoi fratelli erano Epimeteo, Atlante e Menezio. Il gigante Atlante, il maggiore dei fratelli, conosceva tutto quanto si cela negli abissi del mare. Il suo regno si estendeva lungo una zona costiera scoscesa, più vasta che l'Asia e l'Africa messe assieme. La terra di Atlante giace al di là delle colonne di Eracle, e una catena di isole feraci la separa da un continente più lontano che non è unito ai nostri. Il popolo di Atlante ha canalizzato e coltivato un'enorme pianura centrale irrigata dalle acque delle colline che la cingono da ogni lato, salvo per un breve tratto aperto verso il mare. Costruirono anche palazzi, terme, campi sportivi, grandi opere portuali e templi, e fecero guerra non soltanto ai popoli del continente occidentale, ma anche ai popoli d'Oriente fino alle terre d'Egitto e d'Italia. Gli egiziani dicono che Atlante fosse figlio di Posidone e che le sue 5 coppie di fratelli gemelli giurassero lealtà sul sangue di un toro sacrificato. E dicono che dapprima fossero molto virtuosi, portando con saggezza il peso della loro enorme ricchezza in oro e in argento. Ma un giorno si lasciarono vincere dall'avidità e dalla crudeltà, e col permesso di Zeus gli ateniesi da soli riuscirono a sconfiggerli distruggendo la loro potenza. Nello stesso tempo gli dei scatenarono un diluvio che, in un giorno e in una notte, allagò l'intera Atlantide, tanto che i porti e i templi furono sommersi dal fango e il mare divenne impraticabile. Atlante e Menezio, che scamparono al disastro, si unirono allora a Crono e agli altri titani, spalleggiandoli nella loro sciagurata guerra contro gli dei Olimpi. Zeus uccise Menezio con una folgore e lo mandò nel Tartaro, ma risparmiò Atlante, che condannò invece a portare il cielo sulle spalle per l'eternità. Atlante era il padre delle Pleiadi, delle Iadi e delle Esperidi, e tenne sempre il cielo sulle spalle, salvo per il breve periodo in cui Eracle lo alleviò di quel peso. Taluni dicono che Perseo pietrificò Atlante, trasformandolo nel monte Atlante, quando gli mostrò la testa di Medusa. Ma dimenticano che Perseo era notoriamente un lontano antenato di Eracle. Prometeo, che era più saggio di Atlante, previde come sarebbe finita la rivolta dei titani e preferì dunque schierarsi dalla parte di Zeus, inducendo Epimeteo a imitare il suo esempio. Prometeo era, in verità, il più intelligente della sua razza. Aveva assistito alla nascita di Atena dalla testa di Zeus e la dea stessa gli insegnò l'architettura, l'astronomia, la matematica, la medicina, l'arte di lavorare i metalli, l'arte della navigazione e altre utilissime che egli poi a sua volta insegnò ai mortali. Ma Zeus, che aveva deciso di distruggere l'intero genere umano ed era stato distolto da tale proposito soltanto dall'intervento di Prometeo, si irritò nel vedere gli uomini divenire sempre più esperti e potenti. Un giorno, nella piazza di Sicione, si accese una discussione a proposito delle parti di un toro sacrificato che si dovevano offrire agli dei e delle parti che gli uomini potevano riservare per sé. Prometeo fu invitato a fare da arbitro. Egli allora scuoiò e smembrò il toro e ricucì la sua pelle in modo da formarne 2 grandi sacche che riempì con le varie parti dell'animale. Una sacca conteneva tutta la carne, ma ben nascosta sotto lo stomaco, che è il boccone meno appetitoso, e l'altra conteneva le ossa, nascoste sotto un bello strato di grasso. Quando le presentò a Zeus perché scegliesse l'una o l'altra, Zeus si lasciò trarre in inganno e scelse la sacca con il grasso e le ossa, che da quel giorno rimasero la porzione degli dei, ma punì Prometeo, che rideva di soppiatto, privando gli uomini del fuoco. «Che mangino la loro carne cruda!» gridò. Prometeo si recò subito da Atena e ottenne che essa lo facesse entrare di nascosto nell'Olimpo. Appena giunto, accese una torcia al divampante carro del sole e ne staccò una brace ardente, che pose poi entro il cavo di un gigantesco gambo di finocchio. Spenta la torcia, sgattaiolò via senza che alcuno lo vedesse e ridonò il fuoco al genere umano. Zeus giurò di vendicarsi. Ordinò a Efesto di fabbricare una donna di Creta, ai 4 venti di soffiare in essa la vita e a tutte le dee dell'Olimpo di adornarla. codesta donna, Pandora, fu la più bella del mondo e Zeus la mandò in dono a Epimeteo, scortata da Ermete. Ma Epimeteo, che era stato ammonito da suo fratello di non accettare doni da Zeus, cortesemente rifiutò. Sempre più infuriato, Zeus fece incatenare Prometeo nudo a una vetta del Caucaso, dove un avido avvoltoio gli divorava il fegato tutto il giorno, un anno dopo l'altro, e il suo tormento non aveva fine, poiché ogni notte, mentre soffriva crudelmente per i morsi del freddo, il fegato gli ricresceva. Zeus, non volendo ammettere di aver dato sfogo al suo desiderio di vendetta, cercò di giustificare la propria crudeltà facendo circolare una falsa voce, e cioè che Atena aveva invitato Prometeo sull'Olimpo per un segreto convegno amoroso. Epimeteo, angosciato per la sorte di suo fratello, si affrettò a sposare Pandora, che per volontà di Zeus era stupida, malvagia e pigra quanto bella, la prima di una lunga serie di donne come lei. Subito essa aprì il vaso che Prometeo aveva affidato a Epimeteo, raccomandandogli di tenerlo chiuso, e nel quale si trovavano tutte le pene che possono affliggere l'umanità: la vecchiaia, la fatica, la malattia, la pazzia, il vizio e la passione. Subito esse volarono via a stormo e attaccarono i mortali. Ma la fallace speranza che Prometeo aveva pure chiuso nel vaso li ingannò con le sue bugie ed evitò così che tutti commettessero suicidio. I mitografi di epoca più tarda capirono che Atlante era soltanto una personificazione del monte Atlante nell'Africa nord-occidentale, la cui vetta sembra reggere il cielo. Ma per Omcro, le colonne sulle quali Atlante reggeva il firmamento si trovavano nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, così chiamato da Erodoto in suo onore. In origine forse gli fu il titano del secondo giorno della settimana, che separava le acque del firmamento dalle acque della terra. Le piogge giungono in Grecia per lo più dall'Atlantico, e specialmente quando sorgono in cielo le Iadi, stelle figlie di Atlante, il che spiega in parte perché la sua dimora si trovasse in Occidente. Il mito di Eracle, che si carica il cielo sulle spalle, ha due significati. La leggenda egiziana dell'Atlantide, che viene ancora narrata come una fiaba lungo la costa dell'Atlantico, da Gibilterra alle Ebridi e tra gli Yoruba dell'Africa occidentale, non va considerata come frutto di fantasia e pare risalga al terzo millennio prima di Cristo. La versione di Platone, che secondo quanto egli sostiene Solone avrebbe udita dalla bocca dei suoi amici, i sacerdoti libici di Sais nel Delta, fu evidentemente innestata su una versione più tarda, riferente cioè come i cretesi minoici, che avevano esteso la loro influenza in Egitto e in Italia, fossero sconfitti da una confederazione ellenica capeggiata da Atene e come, forse in seguito a un maremoto, le gigantesche opere portuali costruite dai Keftiu, popolo del mare, vale a dire i cretesi e i loro alleati sull'isola di Faro, fossero sepolte sotto parecchi cubiti d'acqua. Sono state infatti recentemente scoperte da sommozzatori. Codeste opere portuali consistevano in un bacino esterno e uno interno e coprivano complessivamente circa 150 acri. L'identificazione dell'Atlantide con Faro potrebbe spiegare perché Atlante sia detto a volte figlio di Giapeto, lo Japhet della Genesi, che secondo gli ebrei era figlio di Noè e antenato del popolo del mare, e a volte figlio di Posidone, patrono dei marinai greci. Noè è Deucalione, e benché nel mito greco Giapeto risulti nonno di Deucalione, ciò può significare soltanto che egli era l'antenato eponimo della tribù cananea che portò in Grecia la leggenda del diluvio mesopotamico, anziché di quello atlantico. Alcuni particolari della versione di Platone, come il sacrificio del toro e l'impianto di acqua calda e fredda nel palazzo di Atlante, provano senza ombra di dubbio che si parla di cretesi e non di un altro popolo. I cretesi, infatti, come Atlante, conoscevano tutti gli abissi del mare. Secondo Diodoro, quando gran parte degli abitanti della Grecia perirono nel diluvio, gli ateniesi si scordarono di aver fondato Sais in Egitto, il che pare un modo piuttosto contorto per dire che dopo la distruzione del porto di Faro, gli ateniesi non tennero più conto dei legami religiosi che li univano a Sais, dove si adorava la loro stessa dea libica Neith o Atena o Tanit. Nella versione di Platone un po' oscuro risulta il particolare dei molti elefanti che popolavano l'Atlantide, particolare che allude forse al traffico d'avorio che giungeva in Grecia da Faro, ma che può anche essere un ricordo della leggenda originaria. L'ubicazione della leggendaria Atlantide è stata oggetto di numerose ipotesi, benché per influenza di Platone l'attenzione popolare si concentrasse soprattutto sull'oceano Atlantico. Fino a epoca recente si pensava che la scogliera atlantica sommersa, che va dall'Islanda alle Azzorre e poi piega a sud-est fino all'isola dell'Ascensione e di Tristan da Cunha, fosse appunto composta dai resti del continente scomparso. Ma ricerche oceanografiche hanno dimostrato che, a parte le terre emerse, tutta la catena è rimasta sott'acqua per almeno 60 milioni di anni. Si sa con certezza che soltanto una grande isola abitata dell'Atlantico è scomparsa e forma ora la secca chiamata Dogger Bank. Le ossa e le suppellettili impigliatesi nelle reti dei pescatori provano invece che il disastro avvenne in epoca paleolitica. L'ipotesi che pochi sopravvissuti, varcando la vasta distesa dell'oceano, portassero in Europa la notizia di quella catastrofe appare assai poco probabile, mentre è più accettabile l'ipotesi che i migranti neolitici della Libia, già in possesso di una progredita civiltà e noti come i costruttori di tombe a corridoio, portassero fin sulle rive dell'Atlantico la notizia di un'altra catastrofe. Codesti libici erano contadini e giunsero in Gran Bretagna verso la fine del terzo millennio prima di Cristo, ma finora non è stata spiegata la ragione della loro emigrazione in massa da Tunisi e dal Marocco verso la Spagna meridionale e di lì verso il nord attraverso il Portogallo. Secondo la leggenda gallese dei perduti Cantrefs di Dafydd, che taluni situarono inverosimilmente nella baia di Cardigan e che corrisponde alla leggenda dell'Atlantide, una grande mareggiata distrusse 16 città costiere. L'irlandese Hy Brasil, la Ville d'Is bretone, la terra di Lyonesse della Cornovaglia, anch'essa erroneamente situata tra la Cornovaglia e le isole Scilly, l'Île Verte francese e la Isla Verde portoghese, sono tutte varianti della medesima leggenda. Ma se ciò che i sacerdoti egiziani narrarono a Solone corrisponde alla verità e la catastrofe si verificò nell'estremo occidente, tanto che i pochi sopravvissuti giunsero da oltre le colonne d'Eracle, l'Atlantide può essere facilmente identificata. Si tratta della terra degli Atlantidi, citati da Diodoro Siculo come uno dei popoli più civili che vivessero a occidente del lago Tritonide, dove le Amazzoni libiche, e cioè le tribù matriarcali più tardi descritte da Erodoto, si impadronirono della città di Cerne. La leggenda di Diodoro non può essere datata archeologicamente, ma secondo l'autore la catastrofe fu anteriore all'invasione libica delle isole dell'Egeo e della Tracia, un episodio che non può essersi verificato più tardi del terzo millennio prima di Cristo. Se dunque l'Atlantide era la Libia occidentale, il diluvio che la inghiottì fu forse provocato da piogge di eccezionale violenza, come quelle che determinarono il diluvio mesopotamico e quello ogigio. Oppure da un'altra marea, rafforzata dal vento di nord-ovest, come quella che spazzò via gran parte dei Paesi Bassi nel XII e nel XIII secolo e formò lo Tsui der See, o da un cedimento della fascia costiera. L'Atlantide può infatti essere stata inghiottita dalle acque quando si formò il lago Tritonide, che a quanto pare ricoprì parecchie migliaia di chilometri quadrati della bassa Libia, e forse si estese a nord fino a occidente del Golfo Sirtico, chiamato dal geografo Scilace il Golfo di Tritone. Colà, pericolosi bassifondi rocciosi indicano probabilmente la presenza di un'antica catena di isole, di cui emergono ora soltanto Gerba e Kerkennas. L'isola che sorgeva al centro del lago, ed è citata da Diodoro, corrisponde forse al Chamba Burruba nel Sahara. Diodoro pare alluda a questa catastrofe quando scrive a proposito delle Amazzoni e degli abitanti dell'Atlantide e si dice che, a seguito dei terremoti, le regioni della Libia che si trovano verso l'oceano coprirono il lago Tritonide e lo fecero sparire. Poiché il lago Tritonide esisteva ancora ai tempi di Diodoro, ciò che gli fu riferito suonava probabilmente così. A seguito dei terremoti nel Mediterraneo occidentale, il mare invase parte della Libia e formò il lago Tritonide. Lo Zuiderzee e il lago Copaico sono stati ora prosciugati e del lago Tritonide, che secondo Scilace copriva ancora 900 miglia quadrate nell'epoca classica, rimangono ora soltanto le saline di Chott Melgir e di Chott El Gerit. Se questo territorio libico era davvero l'Atlantide, le popolazioni agricole che un tempo lo occupavano emigrarono probabilmente in parte a occidente verso il Marocco, in parte a sud oltre il Sahara, in parte a est verso l'Egitto e portarono con sé il ricordo del disastro. Pochi rimasero sulle rive del lago. È probabile che in questo territorio si trovassero gli elefanti di cui parla Platone, benché la montagnosa zona costiera dell'Atlante appartenesse a Creta, che gli egiziani, nemici del mare e della navigazione, conoscevano soltanto per sentito dire. Le cinque coppie di gemelli figli di Posidone, che giurarono lealtà ad Atlante, erano probabilmente i rappresentanti dei regni dei Keftiu, alleati dei cretesi che si trovavano a Faro. Nell'epoca micenea la doppia sovranità era la regola. Troviamo a Sparta Castore e Polideuce, a Messenia Ida e Linceo, a Tebe Eteocle e Polinice. I figli di Posidone si dimostrarono avidi e crudeli soltanto dopo la caduta di Cnosso, quando l'armonia commerciale si sgretolò e i mercanti si trasformarono in pirati. Il nome di Prometeo, il preveggente, ebbe forse origine da un'errata interpretazione greca della parola sanscrita Pramanta, indicante la svastica o fiaccola che si dice Prometeo avesse inventato. Prometeo, l'eroe popolare indo-europeo, fu poi confuso con l'eroe cario Palamede, cui è attribuita l'invenzione e la diffusione di tutte le arti civili per diretta ispirazione della dea, e col dio babilonese Ea, che si vantava di aver creato uno splendido uomo dal sangue di Kingu, una specie di Crono, mentre la dea madre Aruru ne creava uno di molto inferiore con l'argilla. I fratelli Pramantu e Mantu, citati nell'epoca sanscrita Bhagavata Purana, sono forse i prototipi di Prometeo ed Epimeteo che riflette dopo. Tuttavia la leggenda di Prometeo, Epimeteo e Pandora, narrata da Esiodo, non è il mito originale, ma una favola antifemminista probabilmente inventata da Esiodo stesso, benché si ispiri alla leggenda di Demofonte e Fillide. Pandora, che tutto dona, era la dea terra Rea, venerata con quell'appellativo ad Atene e in altre città. Il pessimista Esiodo fa di lei la responsabile della morte dell'uomo e di tutti i mali che l'affliggono, nonché del frivolo e dissennato comportamento di tutte le mogli. Anche la leggenda della distribuzione della carne del toro non corrisponde ai soliti schemi mitici ed è un aneddoto comico inventato per giustificare sia la punizione di Prometeo sia la consuetudine di offrire agli dei soltanto le ossa della coscia e il grasso degli animali sacrificati. Nella Genesi la santità delle ossa delle coscia viene spiegata con l'episodio di Giacobbe azzoppato durante la lotta con l'angelo. Il vaso di Pandora conteneva originalmente anime alate. Gli abitanti delle isole greche trasportano ancora il fuoco da un luogo all'altro nel cavo di un finocchio gigante, e la leggenda di Prometeo incatenato sul monte del Caucaso si ricollega forse a una leggenda narrata dagli elleni al tempo della loro emigrazione in Grecia dal Mar Caspio, e cioè alla leggenda di un gigante di ghiaccio sdraiato sulle nevi delle vette più eccelse e assistito da uno stormo di avvoltoi. Gli ateniesi vollero negare a tutti i costi che la loro dea avesse avuto Prometeo per amante, e in quella città egli fu dunque identificato con Efesto, un altro dio del fuoco e inventore di cui si narra la medesima leggenda, perché condivideva con Atena un tempio sull'Acropoli. Menezio, forza abbattuta, è il re sacro del culto della quercia. Il nome si riferisce forse alla mutilazione rituale. Mentre la svastica volta a destra è simbolo del sole, la svastica volta a sinistra è simbolo della luna. Tra gli Akan dell'Africa occidentale, una popolazione di lignaggio libio-berbero, la svastica rappresenta la triplice dea Ngame.